cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare. Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante danzante merda del... Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E allora buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, eccoci qua. Questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, contro ogni carcere e ogni struttura che priva della libertà, ogni meccanismo che priva della libertà. Sono le 15:01, un minuto e mezzo, quindi inizia la Conta. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 e ogni due mercoledì la potete ascoltare questa trasmissione sulle frequenze di Radio Onda Rossa, appunto. Allora, che vogliamo... come vogliamo iniziare questa trasmissione? È chiaro, è gioco forza, è obbligatorio affrontare il tema più discusso in questi giorni. Se ne parla a volte a sproposito, però poiché i tempi diciamo sono maturi, se ne discute. Ci sono anche state alcune due sono sostanzialmente i temi. Uno che riguarda un po' in generale quello della la nuova legge che si sta discutendo del diritto di difesa, praticamente fare una specie di far west, fornire tutti, soprattutto i commercianti, di armi in modo che possano così contrastare, dicono loro, l'eventuale aggressione di chi va per rapinare o altro. L'altra è il decreto cosiddetto Minniti rispetto alla sicurezza urbana. Vediamo con calma tutte queste due cose, perché c'è molto da discutere. Iniziamo da quello che viene chiamato decreto Minniti, che è il ministro degli interni attuale, che oppure chiamato anche decreto della sicurezza urbana, oppure decreto decreto sul DASPO urbano, sul DASPO cittadino, insomma tanti sono i termini. Il problema di questo decreto, che stava maturando da tanto tempo, ma proprio tanto tempo. E infatti, prima parentesi, io non capisco perché questa, come dire, questo parlarne oggi, quando invece perlomeno erano 5 anni a dir poco che si stava, che stava la gestazione di questo provvedimento stava nelle cose. Difatti non l'ha iniziato Minniti il lavoro, l'ha iniziato sta iniziato in, durante i governi precedenti e anche soprattutto dal ministro degli interni precedenti, cioè Angelino Alfano. Oggi c'è appunto sul Giorno di questa mattina, il giornale Il Giorno, un'intervista di Andrea Cangini al ministro Minniti. Il ministro Minniti è il basso il suo nome perché lui ha presentato il 20 febbraio scorso questo decreto, è un decreto legge, quindi una decretazione di urgenza che è stato emesso il 20, è sempre il 20 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi dal 21 è operativo, operante, può essere, è attivo. Però, come sapete, i decreti legge, i decreti di urgenza devono avere, entro 60 giorni devono essere convalidati dalle due Camere, Senato e Camera dei Deputati, altrimenti decadono. Però sono già attivi dal giorno dopo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che è avvenuta appunto il 20 febbraio scorso. Quindi è già operativo. Però perché non ne vediamo gli effetti in grande stile? Perché appunto è molto complesso e ovviamente necessita di altre strumentazioni da mettere in piedi, è un, sembra un po' una legge quadro. Infatti la cosa veramente grave è che si fa per decretazione d'urgenza una sorta di legge quadro all'interno del quale ci sta l'opera del governo che dovrebbe coordinare il lavoro, ma quella dei prefetti e dei comuni, cioè i sindaci e le sindache sono chiamati a collaborare a questo processo di sicurezza urbana, perché la sicurezza urbana secondo questo nuovo meccanismo messo in atto repressivo dovrebbe riguardare proprio l'attività territoriale, cioè lo scopo principale, fondamentale, con questo bisogna proprio la parola con cui si può, la frase con cui si può racchiudere questo provvedimento è: portiamo il controllo sul territorio da parte ovviamente del sistema repressivo dello Stato, portiamo il controllo fin sul territorio, proprio metro per metro, strada per strada, casa per casa. Quello è l'obiettivo, perché finora la repressione ha operato a livello generale, si facevano leggi generali valide appunto su tutto il territorio nazionale, per chi trasgrediva queste norme c'era il carcere o altre misure di sicurezza. Questa cosa da tempo, e chi ascolta questa trasmissione l'avrà sentita fino alla noia, alla nausea, però evidentemente le cose vanno ripetute, perché anche in questo caso si segnala un ritardo spaventoso da parte di tutti noi e tutte noi, cioè del movimento in generale. Abbiamo dovuto aspettare che andasse sui giornali, perché se ne parla oggi, perché sui giornali chissà perché hanno parlato del decreto Minniti, il decreto sulla sicurezza urbana, il DASPO urbano oppure il DASPO cittadino, e quindi è diventato un problema. Ma lo si sapeva da tempo, appunto chi ascolta questa emissione sa che da alcuni anni, sicuramente per esempio 2 anni fa, nel marzo, 15 marzo 2015, c'è stato il ministro degli interni era Angelino Alfano, governo Renzi, ci fu una riunione in cui i funzionari, gli alti funzionari del ministero degli interni più quelli della giustizia vennero chiamati a fare un summit in cui si doveva appunto delineare questi provvedimenti che adesso hanno preso luce in questo decreto e che già erano stati predisposti da qualche tempo. In realtà il discorso parte da molto lontano, quando per trovare così una frase, uno slogan che mise in moto questo meccanismo, era quando il signor Veltroni disse la sicurezza non è né di destra né di sinistra, ricordate, penso che sia più di 10-15 anni fa, la sicurezza non è né di destra né di sinistra. E allora la cosiddetta sinistra, cosiddetta perché in realtà da come si è comportata da diversi decenni a questa parte, ma qui andiamo molto indietro, non ha fatto più niente di sinistra, perlomeno per quello che significava sinistra una volta, ma 50-60 anni fa. Comunque, da allora prese il via una serie di attività, soltanto in territorio italiano. Questi percorsi interessano tutti i paesi, tutti gli stati moderni, soprattutto le metropoli di tutti i paesi. Un grosso esperimento, come appunto abbiamo detto più volte in questa trasmissione, venne fatto a New York. New York, il sindaco era Rudolph Giuliani, repubblicano, ma non solo repubblicano, avete visto adesso sta dando una mano anche al signor Trump, non solo repubblicano, fa parte di quei settori del partito repubblicano particolarmente legati alle forze di pubblica sicurezza, alla polizia eccetera. La differenza è sostanziale però nei poteri che ha il sindaco in Italia e i poteri che ha il sindaco negli Stati Uniti. Il sindaco negli Stati Uniti già da sempre ha avuto la possibilità di avere delle forze di polizia armate da utilizzare per la sicurezza del territorio, nei famosi sceriffi, insomma, viene da lì il sindaco in quei paesi lì. In Europa, perlomeno in Italia, è molto diversa. In genere in Europa invece il percorso è tutto diverso, il sindaco viene dai primi comuni, quando si costruiva una gestione civile della cittadinanza, e quindi l'aspetto militare era separato, le due cose erano separate. Ancora oggi infatti il sindaco in territorio italiano o europeo in generale, poi bisogna andare a vedere che qualche caso europeo è un po' diverso, però in generale in Europa i sindaci non hanno al loro servizio forze di polizia armate, quindi non possono gestire la sicurezza, ma con con i vigili urbani, no? Con la polizia urbana, che non è armata, ma soprattutto non ha il potere, loro, i sindaci e la loro polizia, non ha il potere di operare sulla sottrazione di libertà. La polizia municipale può mettere multe, ritirare patenti, fare tutte queste operazioni qui, ma non può toglierti la libertà, cioè fermarti, impedirti di fare qualche movimento, la tua attività di libertà, cioè non interviene sulla libertà delle persone. In America è diverso. Con questo decreto si tenta di avvicinare l'opera dei sindaci italiani a quello che invece fanno i sindaci in America. Che fece infatti Giuliani a New York quando diventò sindaco? Disse il suo famoso discorso di insediamento dopo che aveva vinto le elezioni, disse: New York è una città molto grande, quindi il degrado, il disordine, il decoro, cioè la conflittualità, ma anche diciamo quella cosiddetta delinquenza, insomma è molto estesa. Lui fece questo discorso, dice: non si può, non possiamo, noi con questi, a questi livelli, in queste società, non possiamo eliminare del tutto la criminalità. Possiamo però regolamentarla, in primo luogo dal punto di vista urbano, per urbano intendendo le zone della città. Noi possiamo salvaguardare delle zone particolarmente residenziali, dove ci vogliono stare i cittadini tranquilli, togliere da questi terreni, da questi territori, da questi quartieri ogni livello di microcriminalità. Altri quartieri chiamati ghetto li porteremo, possono anche sopravvivere fenomeni di microcriminalità, ecco, quindi facendo un doppio registro. Come riuscì a operare questo registro? Appunto, avendo la polizia al proprio servizio, il sindaco disse: se prendete per esempio un piccolo spacciatore, un venditore ambulante, un mendicante o dei gruppi di ragazzi che fanno chiasso, eccetera, nelle zone residenziali, nei quartieri bene, li punite pesantemente, li arrestate, li menate, fate queste cose qui, e gli dite poi esplicitamente che devono andare via da questi quartieri, andassero nei loro quartieri o nei quartieri periferici o comunque nei ghetti a fare loro attività. Lì qui non possono, altrimenti le condanne qui saranno sempre più alte. Questo fece Giuliani, e questo è un po' il criterio con cui si muove il decreto Minniti. perlomeno il punto di riferimento l'hanno preso da là. Diciamo, non è solo di Minniti. Minniti è un personaggio strano, uomo di D'Alema a suo tempo, è stato sottosegretario alla giustizia nel suo governo, nel governo D'Alema di qualche anno fa, ben visto dalla destra. Soprattutto ha preso questo discorso sulla sicurezza urbana, prodotto appunto da funzionari teorici, non so, cioè, quelli che scrivono queste cose qua, non so come chiamarli, sono repressori, ecco, di destra, l'ha fatta propria e l'ha messa in atto senza cambiare alcunché, e questo lo fa diventare molto simpatico alle forze di destra. Nessuno è contrario a questo decreto dei gruppi parlamentari, sì, alcuni proprio estremi. C'è stata pure una manifestazione proprio ieri davanti al Montecitorio, l'avrete letta, c'era sul Manifesto qualcosa, ma i soliti, no? Associazioni come Antigone, l'Arci, le ACLI pure, le ACLI a buon diritto, quella di Manconi, la CGL, il Centro Astalli, eccetera, hanno fatto la CISL perfino. Hanno fatto questa manifestazione davanti al Montecitorio dicendo che questo decreto, decreto legge di Minniti Orlando, perché appunto è intervenuto anche il ministro e le funzioni della giustizia, il cosiddetto decreto sicurezza, limita la libertà garantita dalla Costituzione e non risolve il problema della sicurezza, che invece è dovuto appunto ovviamente ai meccanismi economici, e dicono inaccoglibile la pretesa di ricondurre la materia del decoro urbano al tema della sicurezza, avallando una concezione dell'ordine pubblico che non produce vera sicurezza, ma al contrario rischia di creare maggiore insicurezza criminalizzando la marginalità sociale, senza preoccuparsi di intervenire per combattere la povertà e la marginalità di un numero crescente di cittadini. Per questo facciamo appello a chi intende impegnarsi a impedire la conversione in legge di questi provvedimenti, a partecipare al presidio, eccetera, eccetera, che c'è stato ieri alle 17 a Montecitorio. Il problema della conversione in legge, piccola parentesi, no? La conversione, appunto, il decreto legge, come dicevamo e come sapete tutti e tutte, è un decreto legge d'urgenza fatto dal governo, che però, siccome l'organo legislativo che produce leggi, che produce le norme in questo sistema democratico è il Parlamento, è chiaro che poi deve essere approvato entro 60 giorni dal Parlamento. Il decreto d'urgenza fu è una possibilità che è data dalla Costituzione, perché possono succedere fatti di estrema urgenza, che sono un terremoto, appunto un'esplosione, anche un'insorgenza improvvisa, eccetera, non si possono aspettare, pensavano così i costituenti, i tempi lunghi del meccanismo parlamentare. Quindi dice: il governo decreta, poi ha 60 giorni il Parlamento per modificarlo, bocciarlo oppure approvarlo. Però dovevano appunto ritornare quei meccanismi di urgenza, di insorgenza, di fatto che non previsto, che succeda all'improvviso, e quindi è necessario dar subito una risposta. Voi vi pare che la sicurezza urbana ha questo carattere di urgenza? Perché se il problema c'è, come dicono loro, ma anche come diciamo noi, se c'è un problema nelle metropoli di tutto il mondo, è un problema che risale alla nascita di queste metropoli, quindi come minimo a 600-700 anni, insomma, o giù di lì, in qualche caso come Roma forse pure di più, appunto. Quindi non c'è niente di urgenza, eppure i decreti d'urgenza, i decreti legge sono diventati la norma di questi governi, di questo, di quello precedente, di quello precedente ancora e di quello precedente. Questo qui è anche in questo caso il decreto sulla sicurezza, fatto appunto il 20 febbraio, poi passato alla Camera, dove non c'è stato un dibattito, a parte che sono tutti d'accordo, però nemmeno formalmente, un dibattito formale, ciascuno poteva dire la sua, ciascuno forse no, il governo ha messo la fiducia. Cioè, praticamente votando quel decreto si votava se mandare via il governo, e siccome nessuno vuole che vada via questo governo, certamente hanno votato in silenzio senza nemmeno discuterlo. Adesso anche al Senato metterà la fiducia. È l'83esima fiducia che ha messo il governo, quindi pensate un po', in un in una vita, governo Renzi e poi Gentiloni, in una vita non tanto lunga, per 83 volte aver messo la fiducia su un provvedimento legislativo che si poteva benissimo discutere con tutti i crismi, con tutti i tempi in aula, è ovvio che c'è un cambiamento di fatto dei meccanismi cosiddetti democratici. Questo lo diciamo per coloro che amano i meccanismi democratici, piace discutere, giustamente hanno detto no per esempio al referendum del 5 dicembre scorso perché dicevano che infrangeva i meccanismi democratici. Tutto vero, tutto bello, però dovrebbero sapere, dovremmo sapere tutti, appuntarcelo sull'agendina, perché è così che le cose si cambiano, prima nella realtà e poi casomai dopo nella legge. Questo avviene in ogni campo, è sempre avvenuto così, avverrà sempre così. Nelle società complesse come quella in cui viviamo funziona così: prima si cambia la realtà delle relazioni, dei rapporti tra Stato e cittadini, o tra cittadini e cittadino, tra gruppi appartenenti a classi diverse, quindi nella lotta di classe prima cambia la realtà di questo scontro e poi la legge casomai ratifica. Non avviene mai il contrario, non è la legge di punto in bianco piove sulla realtà sociale e modifica quei rapporti che erano, non è così. E infatti anche qui il fatto che questo decreto legge, ossia questo decreto d'urgenza, che di urgenza non aveva nulla, perché lo capisce anche una bambina e un bambino di scuola elementare, che la sicurezza urbana comunque la si voglia affrontare, non ha niente di urgente, perché tra l'altro nelle città italiane la situazione rispetto al resto del mondo è così tranquilla che appunto qualche scritta sui muri, insomma, qualche venditore ambulante, quelli che mettono un lenzuolo bianco e vendono le borse, qualcosa, cioè non mi pare che ci siano grossi drammi che scannano la gente per strada, qui non scannano nessuno per strada. Le violenze e gli scannamenti avvengono, ma avvengono in famiglia, nella sacra famiglia, non per la strada. Questo sarebbe bene anche questo da scrivere sull'agenda. L'agenda è importante scrivere, perché uno c'ha sempre sott'occhio, altrimenti va in balia delle baggianate, delle stupidaggini, delle cretinate che dicono i media e che sono volte proprio a farci diventare cretini, e purtroppo va detto che in molti casi ci riescono. Comunque torniamo al nostro decreto sicurezza. Quindi, primo punto, viene da molto lontano, molto lontano. Ha probabilmente interessato tutti i governi e tutte le forze politiche che si sono avvicendate nella gestione di questo paese. Sono tutti d'accordo a questa cosa qui, non c'è differenza tra la Lega. La Lega ha applaudito il signor Minniti, che viene dal PC, amico di D'Alema, quindi queste differenze. Questo decreto di Minniti, ma ieri era di Alfano, sono stati applauditi dai renziani e dai bersaniani, che poi invece qualche settimana fa si sono separati prendendosi anche a male parole. Questo per dire, ma allora la differenza tra questi, quelli renziani e bersaniani, qual è? Visto che è un tema così importante, che è la libertà di tutti noi e di tutte noi. Questo qua riguarda la libertà di tutte noi e tutti noi. Tra un po' entreremo in merito, ma penso che qualcosa già sapete, però tanto per entrare. Se su queste cose sono tutti d'accordo, dalla Lega, da Fratelli d'Italia, passando per Forza Italia, il PD, i centristi di vario tipo e anche i bersaniani, cioè, qual è la differenza? C'è differenza tra qual è la differenza? Intanto su questo grosso interrogativo ci prendiamo un piccolo stacco musicale. Listen to your heart, hear what it says. Allora, torniamo al nostro caro Minniti, che diciamo non è stato l'unico creatore, anche se ne è entusiasta lui, però hanno costruita questo decreto sulla sicurezza urbana, questi provvedimenti prendono corpo appunto da tempo immemore e hanno riguardato il lavoro di tutti i repressori di destra e di sinistra, quindi su questo terreno, ma anche su altri, c'è questo grosso blocco unitario. Non c'è articolazione, non c'è dialettica, non c'è contraddizione, non c'è polemica. Se discutono su queste cose, dicono tutti sì, vabbè, qualcuno casale della Lega dice diamogli pure frustate, vabbè, tanto qualcosa di più vorrà mettere, però più o meno sono d'accordo. Allora, che cosa ha detto Minniti, intervistato questa mattina dal Giorno da Andrea Gangini, perché appunto è il problema, è successo, se ne parla, cosa sta, ecco, io qui veramente rimango basito. Perché di questa cosa di cui tutti sapevamo, queste notizie io non è che ho informatori segreti, le notizie le prendo dalle agenzie, dai giornali, da internet, cui tutti possono accedere, tutti sapevano che da tempo, da molto tempo, sicuramente dagli ultimi 4 anni si stava lavorando per costruire questi decreti, e già erano, quando appunto il 5 marzo 2 anni fa, 5 marzo del 2015, nelle sale del Viminale, il ministro degli interni era Alfano, si tenne questo grosso gruppo di esperti repressivi per formulare queste tesi, che sono le stesse che poi ha firmato Minniti e ci ha fatto il dedo. Perché allora casomai, se c'era da protestare, bisogna protestare, perché era ancora in formazione. Quindi se uno c'aveva pensa di avere la forza, un seguito tra l'opinione pubblica, tra la gente, per poter manifestare un rapporto di forza e quindi cambiare l'indirizzo dei governi, dei poteri, dei partiti su questo terreno, si fa nel momento in cui un provvedimento sta prendendo corpo, non nel momento in cui è uscito sul giornale. Il giornale ti dice è uscito il decreto Minniti sulla sicurezza urbana, questi sono i tutti a strillare. E perché prima dove stava a seguire i partiti di calcio? Va bene, io non è che odio il pallone, però insomma, se uno segue solo le partite di pallone e dà retta solo a quello che dicono i giornali, mi pare poco attento come persona, come uomo, come donna, come cittadino, come compagno, come compagna, cioè è un po' un nulla, un niente, 0,0, ecco. Questa cosa, se si voleva cominciare a protestare, bisognava farlo come minimo quando la notizia è uscita dappertutto. Era chiaro che Alfano e i ministri del governo, tutti i ministri del governo Renzi, cioè gli esperti, stavano lavorando per questo. Ovviamente si poteva pure prima ancora, perché c'era anche prima, ma comunque è esploso esattamente 2 anni e qualche giorno fa, il 5 di marzo del 2015, questo meccanismo è esploso e si è cominciato a parlare di DASPO cittadino, DASPO di piazza, DASPO di strada, DASPO di quartiere. Insomma, voglio dire, perché se vogliamo contrastare queste cose bisogna muoversi in anticipo, altrimenti ormai i giochi sono fatti. Questo è un decreto, diventa legge tra qualche ora, è difficile poi cambiare una legge. E comunque, perché dopo aver fatto in modo che attraverso i media, la televisione soprattutto, la gente digerisse questi meccanismi, perché gliel'hanno fatta digerire, perché dice noi tuteliamo la vostra sicurezza della gente. Tant'è vero che Minniti dice: guardate che la sicurezza urbana non è un discorso di destra, è di sinistra. Questa cosa pure non l'ha detta oggi per la prima volta Minniti e tutti a strillare, non c'è niente da strillare. Nel dicembre dello scorso anno, il presidente della regione fecero un convegno, quelli del PD, in cui c'erano anche alcuni presidenti delle regioni, sempre del PD, no? Per esempio quelle dove Friuli, quelle dove stanno forte la Lega. E da lì uscì fuori l'affermazione che la sicurezza era di sinistra, perché noi dobbiamo dare sicurezza ai cittadini che ce la chiedono. Qual è questa paura della sicurezza? La paura della mendicità, pensate un po', la paura della mendicità. Torniamo indietro di 450 anni, i primi provvedimenti contro, apposta dico, la sicurezza urbana non è proprio di questi, non è urgente, c'ha perlomeno 450 anni nell'Inghilterra, di 450 anni fa, a metà la seconda metà del 500, vennero fuori i decreti contro la mendicità, perché la mendicità metteva in problema, il problema era ovviamente anche allora non c'era televisione, però volevano convincere la gente che bisognava combattere il vagabondaggio, la mendicità, i quelli che non volevano lavorare, perché stavano nascendo le fabbriche, bisognava obbligare la gente ad andare a lavorare in quelle fabbriche. Certo, in condizioni un po' brutte, 13 ore al giorno, in ambienti insalubri, fumosi, schifosi, senza luce, 13 ore al giorno, però quello richiedeva l'industrializzazione e quello andava fatto. Hanno detto il mendicante, pensate un po', in questi decreti del 1572, l'altro ieri, del 1572 in Inghilterra, perché in quel paese è nata l'industrializzazione per la prima volta, poi si è espansa dappertutto. Alcuni decreti dicevano era diffusissima la mendicità, perché avevano espropriato i contadini, avevano distrutto tutto il contado, rubandogli le terre, facendoli indebitare con prestiti strozzinaggi e così via. Le banche hanno sempre avuto un ruolo nel massacro delle persone, non da oggi, da sempre, prima ancora, le banche sono molto più vecchie del capitalismo, quindi su queste hanno tenuto a battesimo, l'hanno cullato nella loro infamità, quindi comunque hanno distrutto tutto il contado inglese, perché appunto dovevano trovare braccia lavoro disponibili, andare in fabbrica, perché non avevano altro modo per mangiare, e quindi espropriarono gran parte dei contadini. Ovviamente molti andavano in fabbrica, poi molte volte non trovavano nemmeno questo lavoro. Si creò questo grosso esercito industriale di riserva, così lo chiamò Marx, ma anche altri lo chiamarono così, proprio l'esercito industriale di riserva. Aprirono la fabbrica, andavano tutti lì per trovare lavoro e anche un po' di salario per mangiare, altrimenti rimanevano. Quindi si sviluppò questo grosso, la mendicità, il vagabondaggio. I racconti di Robin Hood stanno dentro quell'epoca, no? E queste bande che vivevano raccogliendo le cose nei boschi, vivendo un po' per conto loro. Bene e male, il problema era che in questi decreti, no? Riecheggia quello oggi, siccome erano talmente tanti i mendicanti, i vagabondi, si disse: vabbè, ci stanno le persone, si fa una commissione di esperti che dichiara se alcuni veramente sono inadatti al lavoro di fabbrica, perché se gli manca un braccio, sono zoppi, storpi, eccetera, e a quelli daremo il permesso di mendicare. Tutti gli altri invece no, devono andare in fabbrica, altrimenti sono botte, galera, botte, schiavitù, eccetera. Si rintrodusse la schiavitù in quel periodo, perché quelli che non volevano lavorare, gli asociali, venivano dichiarati schiavi per un tempo, temporaneamente, no? Fino a che non imparavano, non capivano che quello era il loro destino. Come vedete, non è che poi cambiano tanto le cose. Il decreto Minniti dice più o meno qualcosa del genere. Intanto dice la sicurezza urbana è di sinistra, perché noi dobbiamo garantire la sicurezza. La signora Deborah Serracchiani, dirigente del PD, ha detto in questo dibattito di qualche mese fa: bisogna dire la verità, la gente ha paura degli immigrati, capito? E la gente ha paura degli immigrati, e quindi noi di sinistra dobbiamo prendere la sicurezza urbana e quindi il controllo degli immigrati come fatto caratteristico dei nostri valori. Vabbè, i suoi sicuramente, va, non so. E quindi però tutti gli altri appresso, quelli del PD. Va bene, insomma, Marco Minniti quindi dice è di sinistra. Non si capisce, qualcuno gli ha detto: ma lo faceva anche Alfano, che fa proprio di sinistra, non è? Diceva appunto, dice: noi siamo contenti che la destra ci applaude, dice il signor Marco Minniti, che viene dal PC. Noi siamo contenti che la destra ci applaude. Vuol dire che abbiamo azzeccato la cosa giusta, perché vuol dire che tutto il paese è d'accordo con i nostri prodotti, destra e sinistra, quindi tutto a posto. Poi si racconta un po' la sua storia, dice, pensate, poi usa una parola orribile, dice: io ero segretario alla presidenza del Consiglio con D'Alema Premier, a suo tempo dovetti intervenire per l'intrigo legato all'arrivo a Roma del terrorista curdo Ocalan, così lo chiama, del terrorista curdo Ocalan. Andate a vedere il giorno di oggi, 12 aprile. Queste sono le parole che usa. Dovetti sciogliere l'intrigo legato all'arrivo a Roma del terrorista curdo Ocalan. Chiamare terrorista curdo Ocalan, che dirigeva un partito che aveva un consenso di massa enorme in Kurdistan. Scivola, appunto. Queste sono, vabbè. Comunque, i punti sono: viene da lontano, sono tutti d'accordo. Quali sono le caratteristiche di questo decreto e perché non prende corpo? Perché è basato su due punti centrali. I punti centrali sono che prevede un accordo Stato-Regioni, cioè queste due istituzioni, lo Stato centrale, nazionale, e le regioni devono elaborare un piano regione per regione, che appunto nel rapporto duplice tra Stato e Regione si crea un piano per ogni regione che ha una sua specificità, quelli che hanno le grandi città, quelle regioni che non hanno le grandi città, quelle che hanno i porti, quelle che hanno altre cose, per creare un piano per... Questa è appunto un po' una legge quadro per fare i decreti attuativi di questo controllo territoriale. L'altro è il rapporto prefetti-sindaci, cioè Stato-Regioni per fare i piani regionali, sotto comune per comune il rapporto è prefetto, che è un funzionario dello Stato, viene direttamente, risponde al Ministero degli Interni, al Ministro degli Interni, è un funzionario di Minniti, è un dipendente di Minniti, in realtà è il prefetto, e il rapporto con i sindaci o con le sindache fanno il piano urbano di sicurezza in questo quadro. In che cosa consiste? Dovrà consistere? Dovrà consistere che in tutto questo quadro, appunto, Stato, Regioni, poi sotto, un gradino sotto, prefetti, sindaci, il sindaco dovrà predisporre una serie di delibere, quindi la mano la passa al sindaco o alla sindaca, ma una mano legata, incatenata. Voi potete rappresentare l'immagine, si vede un sindaco o una sindaca con le mani ammanettate, che firma queste delibere, perché vengono dall'alto, non è che le decide, però dovrà rispettare questi indirizzi. Quali sono gli indirizzi? E questo è il quadro di questa legge: tutte le persone che disturbano il decoro urbano, quindi va dai writer, quelli che scrivono sui muri, gruppi di ragazzi che fanno chiasso, quelli che bevono la birra per strada e poi cantano, piccoli spacciatori, quelli che vendono appunto per strada non autorizzati gli oggetti, le borse, i vestiti, quelli che vediamo che sono, diciamo, la normalità di ogni città. Tutte queste persone qua vanno sanzionate, togliendo loro la libertà di tornare in quel quartiere. Mettiamo che nel quartiere, perché qui siamo a San Lorenzo, no? Facciamo l'ipotesi, qui siamo al quartiere di San Lorenzo, il quartiere di San Lorenzo, il sindaco dovrà dire, in questo caso dovrà sentire anche i municipi, perché Roma c'ha un sindaco e pure i municipi, bene, verrà fuori una delibera in cui si dice: coloro che sono presi, ad esempio, a scrivere sul muro, allora prendo ad esempio uno che si chiama Gigetto, che sta scrivendo sui muri qui a San Lorenzo, viene, ovviamente ci vorrà una militarizzazione del quartiere spaventosa, perché come fai a scoprire che uno che fa una scritta nel quartiere che dura pochi minuti? Ovviamente ci vuole polizia che va su e giù, vigili urbani che andranno su e giù, quindi aumento delle forze di polizia. Questo Gigetto viene preso, gli si fa un decreto in base a questa delibera che dice: il signor Gigetto non potrà più entrare nel quartiere di San Lorenzo per 6 mesi, un anno, eccetera. Domanda che facciamo noi: come fanno a controllare chi entra e chi esce a San Lorenzo? Ci stanno le frontiere? Ci stanno i posti di blocco? Ancora no. Ma allora che dovranno mettere qualcosa? Come fai a dire che il signor tale o la signora tale non possono più, visto che hanno insultato il decoro urbano, non possono più andare al quartiere di Centocelle, Cinecittà, San Lorenzo, Tiburtino? Come fai? Dovrai mettere visto che non ci stanno le frontiere, ancora no, per fortuna, ma se li lasciamo fare, certo che tra quartiere e quartiere non ci staranno, però qualcosa ci dovrà essere, altrimenti la delibera che dice il signore Pinco Pallino non può più entrare in quartiere X diventa chiacchiere da bar dello sport, ovvio, no? Però questo è il meccanismo, quindi rendere vietare la libertà di movimento verso quei luoghi dove queste persone hanno creato una difficoltà di vita, un disordine urbano, coloro che disordinano l'ordine esistente. Allora, qui ci facciamo una domanda, perché insomma non è che siamo scesi dall'albero stamattina. Questo decreto sicuramente, come appunto viene da coloro che hanno elaborato questo controllo urbano, marcerà a due velocità, per dirla adesso si usa tanto, no? L'Europa a due velocità, qui faranno i quartieri a due velocità, cioè i territori urbani avranno due velocità. Che vuol dire? Vuol dire che appunto sul modello di New York allora, e comunque è rimasto in auge, il problema era se io ti prendo a fare una scritta al quartiere figo, dove ci stanno la gente bene, ovviamente gli si dà, viene radiato l'impedimento di entrare in quel quartiere, in quel territorio, verrà buttato fuori. Per liberare questi quartieri beni dalle presenze che disturbatrici. Se invece ti prendo nel tuo quartiere ghetto a fare casino, a spacciare, verrai punito lo stesso, però senza buttarti fuori da quel quartiere, cioè tu puoi rimanere lì e verrai sempre punito, perché ci stanno anche delle multe salate a fianco, cioè diciamo l'espulsione dal territorio, il divieto di entrare in quel territorio, ma anche la pena pecuniaria. Questo è il meccanismo, però come vedete dovrà essere ancora predisposto di questi decreti attuativi che faranno il rapporto Stato-Regioni e al di sotto di questi prefetti-sindaci. Questo avverrà. Ovviamente essendo una legge, ormai tra qualche ora diventa legge dello Stato, questo decreto legge diventa legge dello Stato, il sindaco difficilmente potrà uscire, cioè dire no, io non faccio queste delibere in funzione di questa, perché significa non applicare una legge, è una cosa che non è facile fare. Quindi sì, si fa bene, tutti si fanno manifestazioni, cose eccetera, per dire ai sindaci non rispettate questa cosa, poi però la rispetteranno, la faranno, chi la farà più dura, chi la farà meno dura, però queste cose verranno fatte. Che cosa possiamo fare? Allora, questo è il problema, che cosa possiamo fare e che cosa avremmo dovuto mettere in piedi fin da quando si parlava di questa roba, perché non è uscita all'improvviso, lo sapevamo tutti, certo spesso facciamo finta di non sapere, perché non lo so, per sfuggire alle nostre responsabilità, però da tempo si sapeva, quindi comunque prima o dopo un obbligo ce l'abbiamo, poiché questo si chiama controllo territoriale, poiché avverrà in quel territorio, perché verificare se una gente fa disordine urbano in un territorio vuol dire che ci sono dei personaggi, poliziotti, carabinieri, vigili urbani, che controllano quel territorio, e se in quel territorio ci sta un organismo autogestito, organizzato dai proletari, è ovvio che quel controllo quelle altre forze difficilmente potranno realizzarlo. Cioè qui si gioca uno scontro veramente, si va all'essenza del problema, perché c'è il controllo generale fatto dalle leggi nazionali, tutte queste cose qua che però appunto hanno, ma il controllo vero è quello territoriale. Si ritorna quindi a parlare delle classi pericolose, tema molto vecchio, in cui gli analisti, analizzando appunto tutto il meccanismo del controllo urbano, che non è nuovo, detto, parte da 450 anni fa, nasce quando è nata l'industrializzazione, quando è nato la necessità dell'ordine capitalistico. Difatti quei 450 anni fa i decreti di allora del Vagabond Act Heart, così si chiamò in Inghilterra, erano simili a questi adesso, mutatis mutandis, chiaramente abbastanza simili, cioè tu devi fare quello che ti viene richiesto di fare, non puoi fare altrimenti, qui devi avere un comportamento secondo le norme stabilite dai poteri, dalle istituzioni, altro non è concesso. E quindi ora altro elemento, alcuni dicono questo è incostituzionale, sì, qui si apre però una, come dire, si apre un po', sì è vero, probabilmente lo è, io non sono un costituzionalista al lume di naso, per quelle cose chi ha letto la Costituzione dice che queste cose non si possono fare, diciamo la Costituzione dice con chiarezza che una persona può essere privata della libertà soltanto dopo un regolare processo fatto dalla magistratura, non dal sindaco, né dal questore, né dal prefetto. Questi non possono togliere la libertà secondo la Costituzione. Però poi queste cose già le facevano prima di questo decreto. Perché? Perché ci stanno le leggi di pubblica sicurezza, il testo unico di leggi di pubblica sicurezza, che in acronimo fa TULCS, e che siccome sono quelle rimaste da tanti anni fa, ormai segnano 80, 90, quasi 100 anni ancora no, però insomma sono state fatte nel 20, nel 30 e mantenute anche nel regime democratico, le leggi di pubblica sicurezza già consentivano queste cose. Però appunto gli hanno dato una veste più organica con questa legge, coinvolgendo anche i sindaci, così non scappa nessuno, i diretti rappresentanti della popolazione, il sindaco questo è, e addirittura anche i municipi qui dove c'è l'articolazione ai municipi, perché la città è troppo grande come Roma, Milano eccetera, verranno coinvolti a esercitare questo controllo urbano, territoriale, e quindi ecco. Ora, per concludere, sì, sarà anche anticostituzionale, però no, io non sono un giudice costituzionale, né conosco giudici costituzionali, probabilmente qualcuno l'avrà già fatto, comunque se lo faranno, a parte ci vuole un sacco di soldi perché ci vogliono avvocati costituzionalisti per fare una richiesta alla Corte Costituzionale, quindi alla Consulta, di verificare se queste norme sono costituzionali o meno, e ci metteranno sicuramente diversi anni a verificare questa cosa, ma non è lì la soluzione del problema, e nemmeno quello di dire al sindaco non rispettare questa legge. Non si può chiedere a un sindaco di non rispettare, sì si può pure chiedere, ma tanto si sa che non lo potrà fare, che attuerà la legge, questo controllo urbano partirà prima o poi, ha delle contraddizioni interne, perché appunto come fanno a verificare se una persona entra in quel quartiere, dovranno aumentare di molto le forze di pubblica sicurezza, sia urbane che poliziesche, quindi dovrà oppure creare dei corpi speciali, non lo sappiamo, questa veramente sono degli indicatori che necessitano di strumenti, dei gambe per camminare, e gli decreti attuativi li dovranno fare, però vogliono coinvolgere appunto direttamente i sindaci in queste cose. Questo comunque è il quadro che ci si presenta. Sì, possiamo chiedere quello che vogliamo, possiamo protestare quello che vogliamo, ma il punto centrale è visto che sarà un controllo territoriale, perché questo è, noi nel territorio ci siamo, perlomeno nei territori che ci interessano, e nel territorio dobbiamo sviluppare un contropotere per dire la nostra. and all my abilities. There's so much more to me. Somehow I'll have to make them just understand. I got it well in hand, and oh, how I plan. I'm spreading love, there is no need to fear. And I just feel so good every time I hear. I'm coming out, I want the world to know. I got to let it show. I'm coming out, coming. I want the world to know. Got to let it show. I'm coming. I'm coming out, coming. I want the world to know. Got to let it show. I'm coming out, I want the world to know. Got to let it show. Allora, per ora ci fermiamo qui sul decreto sicurezza urbana, sul DASPO cittadino o urbano, come volete, o di quartiere, come sarebbe più corretto chiamarlo. Insomma, ricordate il DASPO, no? Quando si dice, vabbè, è una cosa che riguarda soltanto i settori di ultras che fanno casino allo stadio. Sì, è stata una sperimentazione anche quella che ha permesso di applicarla qui. Attenzione che in questi, una cosa che forse mi ero dimenticato, non ricordo se l'ho detta, qui tra i divieti che il sindaco in rapporto col prefetto all'interno del quadro regionale eccetera della sicurezza potrà stabilire non solo contro chi deturpa, il writer, il venditore ambulante, chi chiede l'elemosina eccetera, ma anche chi, un sit-in, una manifestazione in un quartiere non solo può essere vietata come già succede oggi, ma le persone che si ritiene, attenzione, che si ritiene possano partecipare a questa manifestazione, non l'hanno ancora fatta. Non è che tu partecipi a una manifestazione, quello vale già adesso, a una manifestazione non autorizzata ti prendi la denuncia, manifestazione non autorizzata, denuncia eccetera eccetera, ti possono anche fermare, certo non c'è l'arresto, però ti fermano, ti portano in caserma per prendere, ci stai una giornata, poi ti rimettono qui e poi ti porti la denuncia. Questo c'è già, c'è sempre stato, ci sarà purtroppo. Invece questa prevede un'altra cosa, che se io, sindaco, col municipio, col prefetto, con le forze di polizia vedranno queste cose, se ipotizzo che ci sarà un sit-in, una manifestazione, un flash mob di questo gruppo, persone eccetera in questo quartiere, non solo glielo vieto, no, quello già c'è, ma posso dar a queste persone il divieto, per esempio, di uscire di casa in quell'orario, di venire in quel territorio dove si dovrà svolgere, in quelle vie dove si dovrà svolgere quel sit-in o quella manifestazione in quell'orario. Non potranno quelle persone venire in quella zona. E quindi, come è un divieto di manifestare molto più forte. Prima c'era il divieto, però un divieto, diciamo, in cui tu avevi la possibilità di trasgredirlo, te ne assumevi le responsabilità, ti beccavi la denuncia, però facevi la manifestazione. Molti non ti ci fanno arrivare su quel posto. Certo, tu vuoi dire come lo fanno criticamente? Come lo fanno non vedremo, appunto dovranno mettere in moto i meccanismi, però il sindaco vieterà a questo gruppo di persone, nome, cognome, 10 persone per esempio, 20, 30, quelle che saranno, di arrivare in quel giorno, in quelle ore, in via Pinco Pallino, dove si dovrà tenere la manifestazione, cioè il divieto di arrivare lì. Quindi è precedente, è preventivo, come vedete, molto più sottile, molto più infame come meccanismo di quello di dire tu, c'è la legge che la manifestazione non autorizzata è vietata, tu la fai, che te frega, poi ti becchi la denuncia, però hai fatta la manifestazione, cioè hai espresso il tuo pensiero, la tua azione, no? Poi la paghi con la denuncia, chi se ne frega. Ecco, invece in questo modo ti vietano proprio di essere presente sul posto. Dovranno mettere a posto i meccanismi per attuare questa, non sarà facile, no? Però comunque Questo è il grave, quindi è proprio un sistema che infrange il rapporto, diciamo, di carattere liberale, se volete, no? Quello che nel 7-800 i liberali hanno detto: lo Stato liberale fa le leggi, ognuno è libero di accettarle o trasgredirle, però chi trasgredisce si piglia la denuncia con tutte le vicende, carcere, eccetera. Mo non è più così, è qualcosa di più. Io non solo ti... se tu trasgredisci la legge rischi di beccarti la denuncia, ma io ti impedisco di trasgredire quella legge, perché ti dico che tu non puoi arrivare qui, metti un posto di blocco, tu non c'entri proprio in quella piazza dove si dovrà tenere quella manifestazione. Capite come siamo messi? Ecco, e quindi, come vedete, il mondo delle libertà va avanti. No, l'ultima cosa che volevo dire, però poi ci torneremo, ma su tutto torneremo, però per come sta scadendo l'ora, c'è stato questo discorso del diritto di difesa, cioè sparare, armare tutti i bottegai perché possano sparare quando entra uno per rubare, eccetera, oppure anche le persone, perché se entra uno a rubare a casa mia io gli voglio sparare. Una società di sondaggi ha fatto e dice che il 43% dicono che è giusto reagire con ogni mezzo. Beh, meno male, pensavo che fosse peggio. Comunque, 43% per meno della metà. Però più della metà, il 70%, sono d'accordo invece che sono favorevole a una legge che depenalizza totalmente coloro che reagiscono e che ammazzano il ladro. Quindi il 70% sono tanti. Ora, sono sondaggi, io non ci credo ai sondaggi, però insomma questo... perché poi il problema è questo, no? Tutti questi reati qua di allarme sociale sono in calo, però qualcuno dice: ma non è la statistica che mette in moto le emozioni delle persone? La gente è spaventata non perché ci siano tanti crimini, delitti, no, perché quelli sono in calo, ma la gente mica guarda le statistiche, è una percezione. Da dove viene questa percezione? Dall'opera dei media, dall'opera dei media, la vulgata, no? È quello che dicono i politici, la televisione soprattutto. Quindi si sta creando una situazione di paura, anche questo è un meccanismo molto vecchio. Il governo della paura è molto vecchio, non è di oggi, dal 700 si svilupparono meccanismi, ma forse prima ancora, dal 700 ci stanno diciamo analisi, carte in cui si analizza come alcuni governi governavano col meccanismo della paura, scatenando paure. Sta succedendo questo, stanno venendo i barbari, vi ricordate Buzzati, no? I barbari devono arrivare, poi non arrivava nessuno, non c'erano questi barbari che devono arrivare. Vabbè, questi sono, poi torneremo su questo, però qui questa legge per modificare il diritto di difesa sta alle camere, sicuramente la peggioreranno, e quindi vedremo anche questo. Comunque ciò che io immagino che per esempio sul decreto della sicurezza urbana, tardi, molto tardi, però sarebbe il caso di iniziare a ragionare come movimento su che cosa fare. D'accordo, la manifestazione per dire non siamo d'accordo, critichiamo, tutto quello che volete, ma queste sono quisquiglie, bazzecole. Come organizzare un controllo territoriale nostro in opposizione al controllo territoriale che vogliono fare loro? Semplice, no? Certo, è difficile a farsi, però almeno è semplice a capirsi. Mettiamo le carte in tavola e muoviamoci su questo terreno. Bene, finita.